difficile parlare quando il tempo è così breve. Vorrei dirti così tante cose, ma non trovo le parole. Sempre qui al mio fianco, sono certo, we will meet once again. Sorriso di un bambino, c'è già l'uomo che sarà da grande. Scusa per gli abbracci un po' bugiardi, che ho capito troppo tardi. Certo, l'esperienza non si insegna, ma si impara con l'amore. Grazie per avermi regalato la speranza. Camminare sempre al tuo fianco, sono certo.